andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. Ciao Crucial. No, non ho detto gioia. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Complimenti per il programma. Vi seguo sempre dalla mattina alla sera. Buonasera. Allora, siete due facce di merda, ovviamente. Caro Parenzo, ma quella famiglia Rom che come d'incanto, come all'improvviso... Sì, ti prego. Come all'improvviso, aspetta, come all'improvviso è apparsa ieri insieme al governatore della Toscana Rossi, e quella foto che tu hai detto, una foto bellissima, no? La solidarietà... Meravigliosa! Le famiglie Rom come... come una qualsiasi famiglia italiana, certo. Eccetera, eccetera. Beh, cari amici, si è scoperto. Nel giro di qualche ora che sostanzialmente sono mantenuti da qualcuno, hanno l'affitto pagato. E da chi è pagato? Da un'associazione. A chi dai soldi? Chi dà i soldi a questa associazione? I contribuenti italiani. Prima cosa, affitto pagato. E quindi? Buona parte di quei signori, anzi di quei ragazzi, figli, sai che mestiere fanno? Chiedono l'elemosina. E quindi hanno diritto ad avere affitto pagato, ma io non ho nulla contro di loro, figuriamoci se voglio torcere un solo capello a questi signori, ma deve essere chiaro che hanno l'affitto pagato e chiedono l'elemosina come mestiere. Che non è l'affitto pagato, non è una villa. L'affitto pagato, la casa con l'affitto pagato, ma gli italiani normali hanno l'affitto pagato da un'associazione? Oppure si sbattono e si fanno un mazzo così per andare da un'agenzia, per farsi prestare i soldi dai genitori? No, invece ci sono le associazioni pagate con i soldi nostri. Con i soldi nostri. Io dico solo questo. Poi per carità, va tutto bene, È tutto normale. A proposito di Rom, tornerò ero più... oggi con dei Rom, oggi ero a fare un sopralluogo, poi ti dirò in un campo. Mi dirai. In un campo Rom dove ho incontrato un signore che si chiama Franco Lo Zingaro. Beh, beato te. Contento tu. Allora, a proposito di Rom, mi ha fatto vedere il tesserino di lavoro, mi ha anche abbracciato, mi ha detto grazie quello che fai, noi mangia, quello è solo lavoro, e questo ha detto. Ma poi e lavoro, vattene a cercare il lavoro, no? E infatti lui lavora, mi ha mostrato il suo tesserino. Bene. Che fa il giardiniere. Allora, no, benissimo, chi lavora in regola e vive in una casa normale con un indirizzo normale, paga le tasse, va benissimo. Appunto. Può essere Rom, può essere greco. Lui vive in un campo, ad esempio. Ma sì, ma vive in un campo, uno deve avere un indirizzo, una casa con un indirizzo, residenza. Ah, è arrivato lui. Ma certo, ma è normale, tutti, per perché tutti è così. Perché la casa gliela affitteresti tu a questo qui. No, ma quindi... non è quello il problema, dai, su. Comunque, non è quello il problema. Se uno si presenta in maniera normale di fronte a un affittuario, di fronte a uno, scusa, a un locatario, di fronte a un proprietario di casa, se uno si presenta in maniera normale di fronte a un'agenzia, non vestito con gli stracci, uno dice gli affitta la casa. Stracci, se uno si presenta, te, dai, su. A uno che non ha un reddito fisso, gli affittano. Dico la in generale, casa, E allora? Appunto, ma quello vale per i Rom, ma vale per un italiano, uguale. Solo che i Rom vivono nei campi. Gli italiani hanno una sorta. Non si può vivere nei campi, si deve vivere in case prese in affitto oppure comprate. Lui, Cruciani Le Penne, ma non è Cruciani Le Penne, ma qualsiasi persona. No, ma qualsiasi persona ragionevole lo pensa. Qualsiasi persona normale, non bisogna essere Le Pen di destra, fascisti o razzisti. Le persone devono vivere non nei campi, ma affittando le case, gli appartamenti, le casette. C'è un signore che urinando. Scusi, come sta urinando? Fermalo un attimo, fermalo. Sì, no, fermalo. Ma che fermalo? Fermalo un secondo. Su un albero. Scusi, signore, però potrebbe gentilmente urinare nei bagni pubblici? Guarda, è là che sta urinando, tranquillo. Ma ballo a cercare, digli perché sta pisciando. Ma che sei matto? Ma questa è Roma, addosso. Quello schifo di Roma con gente che urina alla stazione Termini, un signore, una vergogna. Un signore che sta urinando. Ma una cosa vergognosa, vergognosa. Alle ore 18 e 30. Ma sì, ma è la stazione Termini di Roma, una vergogna, uno schifo, dai, su, sempre così. Allora, in alcune trasmissioni ci sono servizi dove dentro frasi contro i Rom, violentissime. Un attimo solo, abbiamo Sgarbi in diretta, però su muti, ma un attimo solo perché voglio far sentire questa cosa. Cioè, li ammazzo, pezzi di merda, ma non sono razzista. Da Tor Sapienza, frasi registrate e messe dentro un servizio. E poi se la prendono con noi. E voglio essere rispettato. Punto. Poi se io ho un tatuaggio di più, un tatuaggio di meno, cambia un cazzo. Però qui a quel collo una settimana fa sono stati picchiati tre ragazzi di colore solo perché sono scesi comunque dall'autobus. No, perché sono pezzi di merda. C'è una persona così, va, rompe il cazzo a chi non lo deve rompere, a una ragazzina che passa. Io lo ammazzo. E non so razzista. Uno ti fa giustizia da solo. Dimmi. E perché chi la fa? Tu scusa, dimmi come si fa giustizia. Dimmi come si fa giustizia qua in Italia. Vittorio? Dove sei? Che sono davanti a un migliaio di persone in galleria, quindi ho pochi secondi. Sì. Immagino che ti voglia sapere da me che sono stato il primo a indicare Muti come Presidente della Repubblica, oggi mi ha chiamato il fatto e lo confermo. No, sì, ma tu hai parlato con Muti? Ho parlato con Muti questa mattina, non l'ho interrogato direttamente, ma ho visto che era molto sereno e credo anche nel suo interiore disponibile. Sono anche Tordo qua con me, che è amico suo, non gli ho fatto la domanda diretta, ho detto tuo figlio poteva anche non fare quella rivelazione. Sì, perché però, oggi il figlio, ricordiamo che il figlio di Muti al Fatto Quotidiano ha detto che insomma il padre, che Renzi lo avrebbe addirittura, se si sarebbero sentiti con Renzi. Ma il giornalista mi ha confermato che Renzi aveva fatto effettivamente questa apertura. D'altra parte, per quello che mi riguarda, io l'avevo detto anche a te, sono anni che lo dico, l'Italia avrebbe in Muti un simbolo di resurrezione culturale, sì, e sarebbe utile anche a tutto, all'immagine dell'Italia, per cui non c'è nessuno che ma è in che grado di farlo lì, perché secondo te è in grado, sai, uno che ha fatto direttore d'orchestra. È stato in grado Cossiga, è stato in grado, c'è gente che in fondo aveva fatto solo politica, lui in qualche modo ha organizzato, ordinato, come un direttore di un teatro, un sovrintendente, sono ruoli di sovraintendimento che in ogni caso comunque simbolicamente è una grande vittoria, e se veramente Renzi l'avesse proposto avrebbe ancora una volta fatto una cosa che doveva fare Berlusconi meglio di Berlusconi. Però scusami, Berlusconi. Scusami Vittorio, tu hai sentito Muti, ma lui ieri ha detto una frase un po' strana, cioè ha detto io faccio un altro mestiere, insomma questo ognuno deve fare. Non l'ha detto, vabbè, io non gli ho fatto la domanda diretta, ma posso dirti che non ho avuto la sensazione che fosse resistente, cioè disponibile toccare, secondo te, se dovesse, me, sì. Sì, io sono convinto di sì, non gli ho fatto la domanda diretta ma credo che sarebbe disponibile comunque. Se vuoi rifare questo discorso fra un'ora esatta, tanto fai un po' di test. No va bene, qua tutti applaudono, va bene. Che è successo? Chi c'è là? No, che vogliono che cominci, te l'ho detto che inauguravo la Galleria di Stoli, stiamo inaugurando la libreria. Che stai inaugurando? La Galleria di Stoli, e quindi ma scusa, ma però una sola cosa poi ti lascio, sì, velocissimo. Ma uno che ha fatto il direttore d'orchestra non è che può fare risolvere le crisi di governo, fare il capo del governo in Italia prescindono dai presidenti, non può che come risolve le crisi delle orchestre risolverà anche quelle dei governi, in fondo il governo è un'orchestra. Scusi, siamo tutti qua, siamo tantissimi e lo vogliamo per noi, ci scusi, ma gli dia un bacio in bocca, gli dia un bacio in bocca, però prima gli dia un bacio in bocca. Voglio sentire il bacio, ciao. Ti prego. Salvini che è apparso nudo in una copertina. Siamo arrivati anche a questo, Parenzo, oggi, al fatto che Salvini, presente in tutte le trasmissioni, si è fatto fotografare mezzo nudo con il petto di fuori, con petto villoso, con la cravatta verde sulla copertina del settimanale Oggi. Salvini desnudo, non sappiamo non cosa so se queste cose gli porteranno fortuna, Ma non lo so, ma questo... perché il suo elettorato è un elettorato, non lo so, infante, sai, che gli... no, non è da copertine, da settimanali, come dire, no? Non lo so, ma deve conquistare anche un altro elettorato, per cui magari il popolo delle sciure impazzisce per Salvini, e magari anche chi ci ascolta pensa che Salvini desnudo sulla copertina di oggi possa essere, possa diventare un nuovo... No, questo anzi è la deriva salviniana, perché invece lui funziona quando va nei SOS Salvini, no? Funziona il telefono verde. Vabbè, ma se uno no? vuole diventare leader... Scusa Matteo, sì, ho un problema a Torbella Monaco, quello viene, arriva, fa, sei giornalista. Te dici, non arriva, non tutti, arriva a petto nudo, dici, non può... non arriva, arriva con le sue maglie sporche, con sua... Cioè, dalla felpa è passato al nudo. Bravissimo. Dalla felpa al nudo. Funzionava lì, quando lui si blocchiamo dall'Emilia Romagna, dice, se c'è un problema qua a Sassuolo, boom, allora lui arriva, telecamere, via i robo, si cambia la maglia. Mette quella della... Vabbè, ma se uno vuole diventare un leader nazionale deve fare anche queste cose, anche diventare nudo, no, sex secondo symbol, no, perché no? Perché non no, è il no, caso del suo elettorato, ma, è... il suo elettorato, ma deve vuole... conquistare anche un altro elettorato. Comunque sentiamo un attimo Salvini, sentiamo un attimo Salvini, perché ha commentato questa roba alla Vita in Diretta oggi pomeriggio, alla Vita in Diretta oggi pomeriggio, e ha detto questa frase, sentiamo. In compenso su Twitter ti ho visto veramente poco vestito, io mi sono messa la felpa, invece tu compari a torso nudo con una cravatta verde. Non è un bello spettacolo, molto perché sexy. Non punto per chiedere voti sulle mie qualità fisiche, anzi ne perderei, però amo ridere di me stesso e quindi non, mi metto in gioco volentieri. In gioco, ma che vuol dire mi metto in gioco poi? Cosa vuol dire, cioè, mi metto in gioco? Anche questa, prova. Sì, anche vabbè, questa. Dai, su, non vuol dire niente. Non dai. Funziona, quando finisci in quelle... Dormo in pigiama, senti, dormo in pigiama. Quella rivista oggi non è che sia visto. No, è diverso. Una rivista ottima che io apprezzo molto, ma quando un politico decide di finire, è come la torta in faccia al bagaglino di Pietro. Ma no, no? Cioè, ma non esageriamo, dai, è come Renzi, è come Renzi con le maniche là, con la foto in camicia, dai. È un po' diverso. Sentiamo quando ancora Salvini, dai, dormo in pigiama, nudo, dai. Dai, ma che roba è il politico? Ma perché secondo te, scusa, Jean-Marie Le Pen si metteva a petto nudo sulle pointe? Non credo, no? Jean-Marie, il vecchiaccio. E beh, che c'entra, appunto, Le Pen è un passo francese. Mai si sarebbe messo lì a petto nudo su una rivista popolare francese. Dormo in pigiama, credo. Salvini. Abitualmente vai a dormire solamente con la cravatta verde? Abitualmente no, vado a dormire in pigiama come la maggior parte della gente. Va bene, va bene. Veo chilar. La zanzara. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? Ti prego. Siamo ad alti livelli qua, Oh, andiamo subito con gli ascoltatori stasera, vai. Michele Milano, Michele. Michele? Sì, dimmi. Senti. Allora, io sono un idraulico di Milano. Sì. Un paio d'anni fa collaboro tuttora col comune di Milano per andare in giro dalle vecchiette, dalle cose a fare i lavoretti. E un paio d'anni fa mi hanno chiamato per andare al campo Rom che c'è in fondo via MacMahon. Lì sono entrato, mi hanno detto di aspettare fuori perché di non entrare da solo. Allora? E sono arrivati i vigili urbani, con quattro vigili urbani, l'assistente sociale, i vigili urbani armati, e siamo andati dentro a vedere sto campo rom per vedere le varie riparazioni. C'erano dentro tutte le villette prefabbricate in legno, cioè vuol dire che stanno molte volte meglio loro che noi, Ma come fanno a stare meglio nelle baracche di legno? Io sono stato anche oggi in campo qua a Roma. Non erano baracche. Hai presente le villette di legno che vendono per la montagna? Vabbè, poi? Quelle che sono smontabili e rimontabili. Quelle. E non sono baracche. In più i bagni erano tutti esterni, vero, fabbricati. E c'è dentro water, scaldabagno elettrico e lavandino. Li hanno disfatti tutti. Dopo qualche mese che ho fatto le riparazioni mi hanno richiamato perché ancora c'erano delle riparazioni da fare. Quello che avevo riparato ho dovuto in poche parole rifare. L'acqua con le manichette antincendio buttate in giro e ho dovuto, dove ho potuto, far riparare quello che avevano già rotto ancora. Vabbè, tutto lì. Vado via, dopo qualche settimana mi chiama un cliente in via Mario Bianchi, con le case popolari. Vabbè, allora? Niente. Vado lì Mario Bianchi e c'è due ragazzi in piedi davanti al cancello d'ingresso delle case popolari, e io stranamente ho chiesto cosa fanno quei due ragazzi, e fa: sono due zingari, perché alle spalle infatti c'era questo famoso campo rom. Fa: sono sempre lì di guardia e guardano dentro le macchine. Io ero andato là col furgone da lavoro, tanto per fartela breve, mi hanno spaccato il vetro dietro, mi hanno rubato il trapano, mi hanno rubato la macchinetta per l'analisi dei fumi delle caldaie, sì, un'altra valigetta con dei pliant, pensando che c'era dentro chissà che cosa, e 600 euro di danno del vetro del furgone. Parenzo, queste sono cose che accadono, però, non sono cose inventate, guarda, sono cose che accadono. Ma accadono sicuro, ma di quella io sono stato, io aspetta, sono in tutti, sì, in un sacco di campi rom, anche oggi in via Lombroso, quel famoso campo dove allora? La manifestazione di Casa Pound, sono entrato da solo a mani nude, ma col te credo, appunto, a mani nude, col mio corpo tranquillamente, appunto, a mani nude, qui, a mani nude da solo, niente, senza niente, te credo. Vigili. Non c'erano vigili, non c'era nessuno, nessuna scorta, c'erano delle ragazze dell'Arci, volontari, che facevano, sì, i famosi mediatori culturali. Tu vedi tutto come una specie di idillio, come tutte persone piacevoli, tutte persone meravigliose. No, non è piacevole nulla, è un inferno in terra, ma bisogna ringraziare questi ragazzi dell'Arci, volontari, che hanno uno sgabbiotto dentro questo campo a via Lombroso, dove vivono 3-4... E no, vabbè, un cazzo, perché questi qui svolgono un lavoro sociale. Ma, sì, ma chi dice il contrario? Ma chi dice il contrario? Ma chi dice, ma qua ti prego, no, però ti prego, ci sono dei mediatori culturali, sì, che mediatori devono essere culturali, pagati per il lavoro che fanno, sì, per portare i bambini a senti scuola. Senti questa roba qua che è successa a Torino. Allora, Torino, 2 dicembre 2014. Ti prego, te lo dico subito. Fucili, prego, pistole, mannaie, fucili, pistole, aspetta, quelle. Fucili, pistole, mannaie, gioielli, orologi, televisori, scanner, oltre 20.000 euro in contanti. E quanto è la refurtiva che i carabinieri della compagnia di Mirafiori di Torino hanno sequestrato al campo nomadi Sinti in corso Unione Sovietica a Torino. Questo è il punto. Trovate armi e gioielli italiani, peraltro. Armi e gioielli rubati. Dico solo questo. Criminali italiani. Giancarlo da Roma. Ma non è sono fatti italiani. Giancarlo. Salve, buonasera. Guardi, lei può dire quello che vuole al pensiero, diciamo, di Espresso da Parenzo, ma il problema vero è che è come parlare con l'adoratore della dea Iside, nel senso che chi vede la realtà la vede, chi non vede la realtà ma vede una propria realtà, lei può dire quello che vuole. Sì, ma certo. Il problema vero su queste cose, quindi sui rom senti camminanti, sui nordafricani, quindi sulla spinta migratoria, non sono loro, cioè non sono chi si muove dall'Africa, dalla Siria, dal Nord Africa per arrivare qui o in altre parti d'Europa, o i rom che da nomadi si stanno stanzializzando. Il problema sono le persone che, che già sono qui. Sì. Per essere breve. Ma allora? Cioè, finisco così allora il problema sono quelli che ai rom, per rimanere nella fattispecie dei rom, a chi ai rom non fa fare la vita che dovrebbe essere fatta fare a chi è all'interno di un consesso sociale, cioè queste persone hanno una loro dignità sociale, culturale. Sì, ma Giancarlo, io non ho capito il suo intervento, le assicuro che io non ho capito. Rovina, arriviamo a una conclusione, forza, dai. Scusi, il problema dei rom sono, per dire, faccio dei nomi di partito così tanto per comodità, cioè il problema dei rom di Roma o di Milano, di Bologna, è il PD. Il problema dei perché? Rom perché? È il e sono le organizzazioni, le ONU. Perché? Perché? Perché noi gli insegnano a stare insieme a noi. È come cioè se lei ha due bambini, scusi, finisco. È come se lei ha due bambini che va anche a casa dei suoi amici, no? Vede che le danno fastidio, le fanno col pennarello sul pantalone, allora? Lei li rimprovera, dice non si fa, e poi arriva la mamma e dice: ma no, ma in fondo, ma cosa stanno facendo? Sono due segni di matita, sono due segni di pennarello. Ho capito. Cioè, queste persone si comportano così perché va bene, Alessio da Reggio Emilia. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Dimmi, vai, forza, veloce, queste buonasera. Allora, io faccio presto, secondo me bisognerebbe togliere la patria potestà ai Rom, quelli che non si impegnano, quelli che non lavorano, quelli che non danno un'educazione congrua a quella che è il nostro stile di vita, mi dispiace, non possono riprodursi, non possono portare avanti. Che vuol dire non possono riprodursi, scusa, che significa non possono riprodursi? Non possono avere dei figli, non possono educarli in questa maniera, cavolo. E dunque che sia, non possono, che facciamo, li castriamo, gli facciamo le punture, che facciamo? No, hai un figlio, perfetto, arriva il vigile urbano, te lo porta via, chiuso. Vabbè, non è che adesso si possono togliere i figli così facilmente, cioè, manco agli italiani che ammazzano le persone, li tolgono i figli, manco ai mafiosi, li tolgono quasi, adesso li togliamo ai Rom che rubano. I mafiosi però vanno in galera. Sì, d'accordo, ma lei comunque toglierebbe la patria potestà ai Rom se un Rom va, porta il figlio a fare l'elemosina per strada, spinge il figlio, bravo, a fare l'elemosina, eccetera, lei toglierebbe la patria potestà. Proprio così. Sì, però questo bisogna farlo anche con i figli degli italiani o comunque degli italiani. Appunto, di chi? Perfettamente d'accordo. Cioè, guardi, chiunque delinque va tolto, i figli vanno tolti, mi sembra chiunque francamente. Chiunque delinque con una cultura di delinquenza. Però lei dice se basta. Fanno delinquere i figli bisogna toglierli i figli. Eh beh, certo. Vabbè. Parenzo, ci sentiamo dopo il giornale radio. Sì. La Zanzara. Perché lei non è un cocainomane? Allora, caro Parenzo, l'amico... Questo si becca la querela. Ma no, dai, sì. Su, si becca. Ma volete portare tutto in tribunale? Ho dato già mandato all'avvocato, dai, Emilio Trucco, domiciliato a Roma e con un ufficio anche a Milano, di denunziare immediatamente, no, illico, ragazzi, a forza di denunzie, qua non viene più nessuno. A forza di denunzie, non viene più nessuno quello, qua. Ma quello è un pazzo. Non chiama, che chiama più nessuno, dai, ma smettila. No, gli ho chiesto anche di ritirare, gli ho dato la... Andiamo avanti comunque. Vabbè, dai. Gli ho dato la possibilità, era l'avvocato, una battuta, Emilio, dai, Trucco ha avuto già mandato, ha avuto già, e il ricavato verrà dato a un'associazione Rom. Guarda, ecco, ti annuncio. Senti, guarda, l'amico Paolo Bargigia di Mediaset, uno che si occupa di calcio e di altre cose, Paolo? Ha scritto, Paolo Bargigia di Mediaset, un tuo collega anche di Mediaset, perché lavori a Mediaset pure te, ha scritto adesso su Twitter una cosa importante, non se ne può più della tua demagogia sui Rom. Della mia? Cioè, sì, non se ne può più, basta, non se ne può più. A Bargigia, che non, no, mai non lo conosci, ma io voglio bene lo stesso. Ma non se ne può più di questa roba qui, è insopportabile. Non se ne può più di Bargigia. E non se ne può più di Bargigia. Bisogna dirlo così a questo punto, scusa. Dai, su, è insopportabile. Io mi siedo, come diceva Brecht, dalla parte del torto, perché dalla parte della cosiddetta ragione, cioè la vostra, i posti erano tutti occupati dalla demagogia, ma dall'lepenismo. Ma no, dalla demagogia, ma che lepenismo? Ma dove li trovi tu? No, ma scusa, dammi pazienza. Vai in un campo Rom. No, fammi dire questo. Aspetta, sentiamo, appunto, sentiamo questa cosa. Ti prego. No, ma sentiamo questo Rom. Questi dicono candidamente che rubano. Senti, senti, mangiare per mangiare, senti, ruba questa roba. Dove lo trovi tu dei ladri che si costituiscono sempre che ammettono di rubare? Dove li trovi? Vabbè, ma che vuol dire? Gli andrebbe dato un premio. In genere, quando tu catturi un ladro qualunque, no, dice no, io non ho rubato. Questi, quando vai là, gli metti pure un microfono con la telecamera. Ma lei ruba, scusi. Sì, però ruba, quello è il senso, certo, dell'impunità, è diversa mangiare, la cosa. Per mangiare ma ruba. Ma questo è il senso dell'impunità. Andrebbero premiati perché si costituiscono tutte le volte. Ma stai dicendo una cosa vergognosa. Ma no, lo dico per paradosso, ovviamente. Non è un paradosso. Ma dichiarano di rubare, è perché alcuni si sentono impuniti. Ma perché tanto se rubano puniti, i Rom, ma nessuno li tocca. Se un, se un vero, italiano, ma... un italiano, cioè se uno che non è Rom va a rubare, lo pizzicano subito. Se sei Rom, dice vabbè, sei Rom, puoi rubare. Comunque, sentiamo quello che dicono. Là, credo da Piazza Pulita. Lo ritwitto Bargigia, mio amico Bargigia. Vabbè, lascia perdere adesso, no, Bargigia. Ma voglio anche bene io a Bargigia, invece, non è vero? Ma non manco lo conosci. Senti, ma questo voglio qua bene a prescindere. Senti perché questo, dai. E se ho dei precedenti penali, io ho anche i miei figli uno o due precedenti penali. Di che tipo? Di furti di rotame di ferro. Di solito qualche furto ci scappa, quando ci manca da mangiare vanno a fare qualche furto, ma non furto per diventare ricchi. Ma voi vi rendete conto o no? Cioè, qui c'è l'illegalità in ogni servizio televisivo che abbiamo visto negli ultimi 15-20 giorni. C'è un'illegalità continua e nessuno dice un cazzo. Se io vado in televisione e dico, ieri sono andato in un supermercato qua sotto e ho rubato tre cose, dopo 5 minuti arrivano i carabinieri. Anche 5 lì, qua, 5 minuti. Lì. Qui questi dicono, sì, ho fatto furtarello, figli, rame, cose. Nessuno fa niente, tutti fermi. Sentiamo ancora, dai. Anch'io metterei tutti in galera per quelli che uccidono i bambini e stuprano i bambini, sono, vabbè, pedofili. Ma infatti, non possono sono pedofili, solo i zingari, li cercano e poi li trovano. Solo per un furto? Sì. per un furto, a quelli che fanno rapine e che uccidono, che dopo un po' li lasciano fuori. Noi rubiamo solo per dar da mangiare ai nostri figli, non facciamo richieste. Questa cosa del rubiamo per mangiare è un'altra ridicolaggine totale, eh. Cioè io non capisco, io capisco anche il tuo paradosso, cioè lo dicono, ma lo non dicono, è che lo, sì, ma non sono da premiare come dici tu. Ma tu hai mai conosciuto dei ladri che ammettono di essere ladri? È perché hanno mai mai conosciuto tu un ladro, no, che ammette vero, di essere un ladro? Ma è un aggravante, no, perché questo addirittura lo dicono, mangiare ruba, certo che ruba, guarda il Rolex rubato, e te lo dicono, scusa amico mio. Vabbè. Ma che roba è, ma... Fatemi sentire il TG3, poi torniamo sulla vicenda della, di Emanuele Fiano del Partito Democratico, che vuole denunciare quell'ascoltatore. Sì. Bene. E vi dico un'altra cosa vergognosa. Mi avrà al suo fianco. No, un'altra cosa su Famiglia Cristiana vergognosa, perché ho trovato delle cose molto divertenti su Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana pagata con i soldi nostri, pagata con i nostri soldi. Come che vuole portarci. Sì, sì, sì, amico mio, mi sono informato oggi. Non sapevo. Famiglia Cristiana, beh, sì, riceve un sacco di soldi di finanziamento pubblico e ci vuole portare in tribunale per l'intervento di un ascoltatore che noi abbiamo fatto sentire, con cui abbiamo combattuto, che ha detto delle cose orribili sui rom, che devono essere portati al compattatore come cibo per i maiali. Noi l'abbiamo contrastato, certo l'abbiamo chiamato, sì, certo, perché vogliamo far sentire l'orrore. Ha chiamato lui, poi io l'ho richiamato, perché volevo che spiegasse a tutti, volevo far vedere e sentire in questo caso a tutti l'orrore. Comunque TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Mafia Capitale, un collaudato redditizio patto di ferro tra mafia e politica a Roma, 37 arresti, 100 indagati, tra loro anche l'ex sindaco Alemanno. Tra gli arrestati di oggi Massimo Carminati, ex terrorista nero ed ex banda della Magliana, per gli investigatori era lui al vertice dell'organizzazione. Sarebbe morto tra le 10 e le 10.30, Loris, il bambino ucciso e gettato in un canalone per detenzione di esplosivi, indagato il cacciatore che lo ha ritrovato. Renzi, inaccettabile collegare i tempi della legge elettorale alle riforme del Senato, possibile una clausola per far entrare in vigore l'Italicum da gennaio 2016. 5 Stelle in allerta per le aperture del Premier sulle riforme, si teme lo strappo dei dissidenti, Grillo Renzi cerca voti per il Colle. Terroristi somali uccidono 36 operai dopo aver lasciato liberi i lavoratori musulmani. La strage spinge il Kenya alla guerra contro i miliziani somali. Schettino interrogato al processo per il naufragio della Concordia all'inchino. Allora, Emanuele Fiano ieri alla direzione del Partito Democratico sulla Zanzara e sui Rom, vuole denunciare un ascoltatore della Zanzara, Giorgio da Genova, che ha parlato di compattatori, cose terribili ovviamente. Però io dico una cosa, se si comincia a portare certe persone, lasciamo perdere i tribunali, cioè, ma che senso ha? Che ma senso perché? Ha portare in tribunale uno che è intervenuto e ha detto una cosa certo terrificante perché come quella? Perché esistono leggi a tutela del fatto che se uno incita all'odio, per fortuna il nostro è un paese civile. Vabbè, sentiamo Fiano, dai, sentiamo Fiano. Vorrei anche soffermarmi sul livello pericoloso di profondità che sta raggiungendo il razzismo nel nostro paese e il fascismo. Pochi giorni fa la trasmissione più seguita d'Italia radiofonica, La Zanzara, un ascoltatore non interrotto dal presentatore ma contrastato dall'altro, sono due presentatori, ha proposto per i Rom dei termovalorizzatori, dove entrano i Rom ed esce mangime. In quella trasmissione radiofonica nessuno l'ha interrotto a questo signore. Noi faremo un'interrogazione parlamentare, ma io quel signore che ha detto che i Rom devono diventare materiale per termovalorizzatori lo voglio portare alla Procura della Repubblica e vorrei che fosse il Partito Democratico a portare quel signore alla Procura della Repubblica. Scusate se parliamo ancora di fatti nostri. Allora, primo, io ho contrastato, non è vero che quel tizio lì ha parlato liberamente, è falso e Fiano lo sa benissimo, ma lasciamo perdere questo. Ma ho saputo che un signore, credo che sia lo stesso, Stefano Pasta, giornalista di Famiglia Cristiana, ha tenuto un corso, questi assurdi corsi di formazione professionale per i giornalisti, in cui al termine di questo corso, durante addirittura lo stesso corso, così mi è stato detto, ha proposto una sorta di incriminazione nei nostri confronti per questa vicenda qui. Cioè dovremmo essere processati da non so quale tribunale, forse dall'ONU secondo lui, eccetera eccetera. Ebbene, io dico che i signori di Famiglia Cristiana, i signori di Famiglia Cristiana dovrebbero innanzitutto smettere di prendere i soldi dello Stato, perché non possono attaccare gli altri così liberamente prendendo i soldi pubblici. Allora si dovrebbero, non dico vergognare perché non si, nessuno si deve vergognare di nulla, voglio semplicemente dire al nostro pubblico che i signori che ci attaccano e che ci vorrebbero processare hanno preso nel 2000, solo per gli ultimi tre anni, 2010, 2011 e 2012, qua i dati precisi, più di 600.000 euro di finanziamento pubblico. 600.000 euro di finanziamento pubblico. Dico solo questo. E farebbero meglio a pensare alla questione vergognosa che ha sollevato la Corte dei Conti sull'8 per 1000, sul modo in cui viene gestito l'8 per 1000 a favore della Chiesa Cattolica, a favore della Chiesa Cattolica. C'è una relazione recentissima di novembre della Corte dei Conti. Invece di prendersela con noi, pensassero all'8 per 1000 gestito in maniera vergognosa a favore della Chiesa Cattolica. E basta adesso con Famiglia Cristiana, perché sennò diamo troppa importanza. Andiamo a... Io me ne vado da Cicchitto. Ah, vai da Cicchitto? Sì, io vado da Fabrizio Cicchitto, vado proprio nel suo ufficio. Vai, ci vediamo là, però, prendo eh? Un taxi. Sì, qua a Piazza Indipendenza. Ciao, ciao, ciao. Chiami ciao. Al cellulare allora. Gaetano, ok. Gaetano, provincia di Modena, vai. Sì, pronto, buonasera. Sì, dimmi. Solo due cose da dire. La prima, quando sento parlare una volta Capezzone, adesso la Serracchiani, due partiti diversi, ovviamente mi sembra di sentire persone che non parlano, leggono. Non ho capito, lei a cosa si riferisce? La Serracchiani, Capezzone, non ho sentito niente. Che è? Durante il giornale radio, che cosa? No, è una... no, una cosa che ho sentito oggi, una cosa vecchia, era una cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito parlare. Perché lei c'ha in mente la Serracchiani e Capezzone? Non so. Scusi. Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea, mi hanno dato un boom, mi fanno sembrare che quando dicono qualcosa non la dicano veramente, si siano studiati la particina e poi la stiano... Vabbè, non sono i soli, Gaetano, sì, allora che cosa vuole aggiungere? No, andiamo ai Roma, la cosa che volevo dire io era questa... Non è vero che siamo tutti uguali, assolutamente, non è vero, perché io da disoccupato, purtroppo l'azienda in cui lavoravo è fallita, mi sono fatto i miei 8 mesi di di disoccupazione, con assegno di disoccupazione, e da gennaio sono in caduta libera, nessuno... Beh, allora? Caduta. E allora non è vero che siamo tutti uguali, perché... Cioè lei dice che i Rom sono privilegiati rispetto a chi perde lavoro, eccetera, a parte certo che molti Rom sono italiani, Ma io non ho fatto questione di nazionalità, io ho detto Rom, non è vero che siamo uguali, assolutamente. Lei dice quando ai campi Rom pagano la luce, eccetera, secondo lei allora, è ingiusto rispetto a quello che hanno gli italiani in termini di welfare allora. E tutto. No, guarda, io sono contrario proprio all'esistenza dei campi Rom. Secondo me una persona normale in qualsiasi paese deve andarsi a cercare un affitto come fanno tutti. Io conosco persone italiane, ma lasciamo perdere l'Italia perché molti Rom sono italiani. Molte persone che per trovarsi la casa hanno grandi difficoltà e si rivolgono agli amici, si rivolgono a un'agenzia immobiliare, si rivolgono al mercato, vedono gli annunci sul giornale, fanno i salti mortali. Secondo me deve esistere solo questo, non è che possono esistere delle enclave dove tu non paghi nulla e sei mantenuto dallo Stato. Io la trovo una follia. Poi non mi interessa che sono Rom, che sono più sporchi, che mi interessa se rubano, ovviamente. No, a me non mi possono esserci dentro tante greci, ungheresi, spagnoli, italiani. Non mi interessa. Non possono esistere delle enclave dove noi paghiamo. Purtroppo, però, ci sono le convenzioni internazionali, l'Europa che proteggono le etnie Rom, giustamente per il passato. No, però è così. Ci sono le convenzioni internazionali che li proteggono per quello che è successo nel passato e alziamo tutti le mani contro lo sterminio, quello che vogliamo. Però sono alibi vergognosi, perché questa cosa qua deve finire. In Francia hanno avuto la mano un po' più forte. Pubblicità, torniamo tra un attimo. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. La Zanzara. Che poi alcune associazioni Rom sono estremamente permalose. Adesso tutti... No, vogliono portare in tribunale anche la russa. Nazione Rom, quello, il segretario... È Radio 24. Ma che è successo? Il telefono. telefono di Parenzo, vabbè, telefono di Parenzo che è collegato con quello della radio, sta andando da Cicchitto, vabbè, che dobbiamo fare? Fra poco avremo ospite Fabrizio Cicchitto, un uomo centrodestra, però stavo dicendo che il segretario di Nazione Rom ha denunciato pure la Russia per quello che ha detto l'altro giorno alla Zanzara, quando ha detto che i Rom sono culturalmente ladri. Allora che deve fare Buonanno? Cosa merita? La galera? Cosa merita? La ghigliottina? Sentiamolo, che combatte. Buonanno. Denunciato recentemente perché ho detto sì. Che i Rom sono predisposti sì. La maggior parte al furto, alla menzogna, sì. Mi hanno denunciato, ma io lo ridico qua, i Rom, gli zingari sono predisposti al furto e alla menzogna la stragrande maggioranza. In studio. Poi combatte con Monica Cirinnà, Partito Democratico. È facile andare al campo Rom e poi abitare i Paglioli, stiamo poi in mezzo lì a vedere. Il ministro degli usano interni. I bambini, usano i bambini, quelli sono animali che usano i bambini, le mamme, ma usano i bambini per farli rubare perché non vanno in galera. Come un animale, si vergogni di no, sono animali dicendo. Quelli che usano i bambini, sono animali. Signora, 21 anni che faccio il sindaco, da me non c'è mai stato un campo rom e ci fosse stato, avrei preso a cazzo nel culo. Andiamo in piazza da Poletti, poi torni su. Difendo i miei cittadini, io li difendo. Buoni. Lei vada a prendere la tartina al caviale, che è più brava. Via buona con le tartine al caviale. Vada al Parioli. E poi non so manco se Monica Cirinnà in realtà abiti ai Parioli, signora Monica Cirinnà. Monica Cirinnà del Partito Democratico. No, ma mi sembra, guarda, tutto adesso io tra pochi minuti sono qui alla camera, spero che si senta, e vado su nell'ufficio di Fabrizio Cicchitto. Che dopo ve lo dirò che siete diventati alleati, tu no, simpatizzante del PD, lui . Sì, glielo dirò, non ti preoccupare, tu simpatizzante del PD. Devo dare 10 euro al tassi, 10 euro, metta in conto a Radio 24. No, ma che in conto a Radio 24? Non hai le spese, ma sei impazzito, sei. E che cosa vado? A spese mie per lavoro? Ma certo, a spese tue, sei ricco, famiglia ricca. Famiglia ricca. Ma che il lavoro si paga, amico mio. Famiglia ricca, famiglia ricca, casa al centro di Roma. Casa grande al centro di Roma. Il lavoro si paga lo stesso, cosa c'entra? Ma non c'è nessun rimborso, non ti preoccupare. Non c'è alcun rimborso. Io voglio capire dalle ascoltatrici se andate su internet, andate su Twitter e fate Salvini oggi. La rivista oggi, voglio capire se Salvini desnudo, con questo corpo villoso fuori, con la... alle donne, esatto, bravo, con la cravatta verde, è un bel ragazzo, non è brutto. No, ma Salvini, detto, guarda, anche le maestranze televisive del canale 5, del Matrix, sì. Le parrucchiere, ma hanno detto effettivamente. E Salvini tira da questo punto di vista? Non hanno detto così, però piace. Beh, no, t'hanno detto di peggio, t'hanno detto anche di peggio. Comunque adesso potrebbe non sentirsi per qualche minuto perché devo salire nell'ascensore. Ma non ti preoccupare, io sento qualche ascoltatore che tanto ti farà un mazzo così per quello che hai detto sui Rom. Devi farmi replicare, però. Sì, vabbè, appunto, resta intanto collegato. Mario da Pavia, Mario. Sì, buonasera, sono incazzato nero. Okay. E vorrei fare tre domande. No, vorrei fare tre domande al dottor Parenzo. Io ho subito un furto, li hanno arrestati, ma sono già fuori. Volevo chiedere al dottor Parenzo se non gli hanno mai avvelenato il cane, se non gli hanno mai fatto così. Addirittura avvelenato il cane, avvelenato il cane nelle ville, vabbè, quando rubano nelle ville, dice lei. Certo. E se per caso non gli hanno magari anche defecato sul divano. Volevo fare queste tre piccole. Ma ti ricordi quell'ascoltatore che chiamò quella volta Parenzo raccontando nei dettagli le persone che erano entrate a casa sua e che avevano cagato sul no, ho usato un termine un po' più elegante, però è proprio quella cosa di più. Vabbè, io lo dico in maniera cruda, in maniera molto molto chiara, non è che bisogna girarci intorno. No, siccome tantissime volte Parenzo, hai subito qualche furto di Roma, ti hanno cagato in casa. No, ma tu abiti a Prati, figurati, nella ricca Prati, amico mio. Abiti a Prati e darò anche il tuo indirizzo. Sei bravo criminale che non sei altro, ma alcuni a parte che non non sto a Prati. Ma alcuni... Come no? Quartiere Prati, come no? Quartiere Prati nel ricchissimo come no? Quartiere ricchissimo di Roma, come no? Ma come no? Quartiere Prati. Non dirò l'indirizzo per carità di patria. Io lo posso dare tranquillamente il mio, non ho problemi. Voglio dire questo, neanche io ho problemi. Voglio dire questo. Però abiti a Prati, dillo, abiti a Prati, quartiere molto ricco, casa molto grande, vivi nell'agiatezza, ma bisogna dirlo. Anch'io vivo nell'agiatezza. Ma normalissimo, ma che normalissimo, vivo del mio, cari amici, senza sussidi statali, vivo del mio, e adesso mi avete rotto i coglioni, vivo del mio. I ladri li ho avuti in passato quando stavo a Milano, in Viale Monza, numero 43, zona di migranti. Beh, bei tempi quando eri proletario, bei tempi, amico mio. I problemi, viaggio come i radioascoltatori sanno, perché mi vedono sulla metropolitana di Roma, mi vedono ogni giorno che compro il biglietto a 1,50 euro, grazie Ignazio Marino, che ha posto le stazioni perché fanno schifo, perché a voi piace un mondo così? Beh, a me fa cagare un mondo così. Cioè, ti fa cagare Roma? Ci sono delle stazioni che sono in condizioni indecorose, non sarà sempre colpa dei Rom, se le stazioni sono in quel decoro. Io vabbè, fammi sentire, vai da Cicchitto, un attimo, Gianni da Roma, dai. Ciao. Gianni. Salgo su da Cicchitto. Sì, sì, va bene, vai. Posso, Parenzo? Vai, Gianni, vai, dimmi. No, ti volevo dire che praticamente io avevo una ragazza di Singapore, no? Allora diverse volte mi è capitato di andare là. E per le strade vedevo, quando stavo insieme a lei, cioè i vari mendicanti, zingari, quant'altro, al collo avevano una specie di pass con un codice a barre, la foto, eccetera. E in pratica, incuriosito, gli chiedevo, ma come mai questi praticamente sono registrati? In pratica lei mi spiegava che lì anche il mendicante, cioè, viene registrato, cioè viene in modo che praticamente se gli viene fatto ad esempio un sussidio statale, e poi dopo è che può fare pure il mendicante, capito? Sì, ho capito. Vengono anche in Italia, sono identificati quelli che hanno un reddito zero, quelli che sono senza reddito, in qualche modo. Certo, non è che hanno la targhetta al collo, come le hanno raccontato. Vabbè, arrivederci, Gianni. In collegamento dalla camera, insieme a David Parenzo, che si è barricato lì, è sempre a portata, sempre a vista, nei dintorni. Fabrizio Cicchitto, nuovo centrodestra, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Ha visto l'ultima copertina del settimanale Oggi, per caso? No. Allora, c'è il leader della Lega Nord, Salvini, esatto, che Berlusconi qualche giorno fa ha detto, poi ovviamente il giorno dopo era un goleador, sì, il giorno fondamentale del centrodestra. Esatto, il giorno dopo in realtà ha detto non volevo dire, coronato, eccetera, eccetera. Si è ricordato di Torres, si è ricordato che non segna un gol, che lui ha voluto al Milan ma non sta segnando un gol. Quindi Salvini come Torres. Salvini, Cicchitto, sarà suo alleato, sarà il leader del centrodestra. Ho capito, del suo centrodestra. Cioè quello di Berlusconi, cioè no, lei non si farà mai comandare da uno come Salvini. Salvini c'ha la mia simpatia, ma per andarci al bar, ma non per farci politica insieme. Cioè politicamente non vale pochissimo secondo lei? No. Abbiamo idee totalmente diverse. Poi lui sta facendo una operazione a suo modo geniale, nel senso che avendogli messo in mano una Lega che era attraversata da piccoli scandali, li ha fatti dimenticare tutti quanti, però ha cambiato, c'è un mutamento genetico della Lega, non è più la Lega di Bossi e di Maroni, la Lega semi-secessionista, è una Lega che cavalca la tigre dell'anti-immigrazione, un po' razzista, anti-Rom, e che punta a penetrare anche nel sud. Scusi Cicchitto, dunque secondo lei la Lega è un movimento, non dico parafascista, ma ha delle inclinazioni di questo tipo? Un po' razzista. Insomma, è un movimento di estrema destra, che ce ne stanno diversi in Europa, che in seguito anche a tutte le contraddizioni che purtroppo l'Europa, l'euro mette in evidenza, stanno pescando. Non a caso abbiamo visto Salvini e la Le Pen abbracciati in un vorticoso ballo. Diciamo la verità, lei la politica di Salvini, quello che sta facendo anti zingari, i campi rom, anti immigrazione, le fa orrore? Cioè quello che dice Salvini su questi temi le fa orrore? Non dico che mi fa orrore, non lo condivido per niente, e secondo me lui scherza col fuoco, nel senso cioè che siccome per carità i problemi ci stanno sì, specie nelle periferie, perché poi c'è questo dato paradossale, sì, che è la parte più povera della popolazione italiana che viene a contatto, sì, con gli immigrati e alla fine si incatena. Però scusi, questo odio contro i rom che sembra sia diffuso, in realtà poi non bisogna nemmeno esagerare, è il frutto avvelenato dei raid di Salvini, delle parole di Salvini, dell'atteggiamento della Lega? No, secondo me è il frutto di una difficile coabitazione. Ma la Lega ci mette del suo? Anche certo che ci mette del suo, ci innesta un'operazione politica. Ecco, ma lei era alleato della Lega, però lei dice un'altra Lega adesso. Un'altra Lega, ma che scusi, lei è un osservatore malizioso ma attento. Sì. La Lega di Bossi e di Maroni non ha nulla a che fare. Cioè i padri fondatori della Lega si rivoltano nella tomba davanti a un Salvini che va al sud e dice... Sono vivi, però. Non nella tomba, perché fortunatamente... No, Bossi, lui. Non Bossi, che ne so, quelli ma, che sono. Ma certamente si trovano travolti da uno specie di tsunami politico che è tutta un'altra cosa. Ma se Salvini... Salvini sta andando... Sta andando nel centro e nel sud. Ma se Salvini vincesse ipotetiche Parenzo primarie del centrodestra, lei cosa farebbe? Non vorrei danneggiare Cicchitto, ma sono finora totalmente d'accordo con lui. Non vorrei danneggiare. L'hai già danneggiato. Parenzo, d'accordo con Cicchitto? Non sono d'accordo perché state facendo un casino del demonio fra voi due, non vi riesco a. O parla l'uno o parla l'altro. È il solito casino fatto da Parenzo. Sì, è chiaro, comunista. Deve tenerla d'occhio perché è un sabotatore della trasmissione. Allora, Davide, di. Ho detto semplicemente che non volevo metterla in difficoltà, Cicchitto, ma sono drammaticamente d'accordo con lei al 100%. Si deve preoccupare, però. Ma perché mi devo preoccupare? Beh, lei è d'accordo con Parenzo, è una cosa. Per... Come sta? La volta che l'avrei preso gli avrei tirato una sedia in testa, ma quello fa parte. Beh, ma adesso voi siete praticamente alleati. Oggi invece gliela sto offrendo la sedia, ma lui sta in piedi perché deve crescere. No, però il punto fondamentale è un altro, che adesso siete praticamente alleati al governo insieme, perché lui è simpatizzante del Partito Democratico. No, lei è alleato del Partito Democratico di Renzi, per cui siete drammaticamente alleati, questo è il punto. Io non so come dire. Ridono di tutti i colori. Esatto. Ma lei, tra un alleato come Renzi e uno come Salvini, mi dica la verità, 100.000 volte Renzi. 100.000 volte no, perché non sono così aggressivo. Vabbè, 10 volte sì. Però con Renzi è possibile fare un'alleanza tra posizioni diverse. Con Salvini stiamo, diciamo così, proprio agli opposti. Del resto Salvini non è, come dire, molto garbato nei confronti nostri. Ah, quello no. Comunque meglio Renzi di Salvini come alleato, meglio Renzi di... leggermente sgarbato. Ecco, meglio Renzi di Salvini come alleato. Con Renzi si fa un governo. Con Salvini è impossibile, sarebbe impossibile. Sembra impossibile. E su questo deve riflettere però anche Berlusconi, perché se Berlusconi pensa di servirsi di Salvini, sì, cavalcare la tigre, devi stare attento perché poi rischia di essere scavalcato e sbranato. L'anticipo io, sbranato, so quello che voleva dire. Ma lei non ha mai parlato con la Pascale? Sì, ma molto brevemente. Ma di politica? Ma non mi ricordo neanche di cose di... diciamo così, occasionali, insomma. Che ne so, Dudù. Ma questo capitolo non l'abbiamo aperto. Cortesia quando ci incontreremo. Ecco, però diciamo la verità, Cicchitto, io lo so quello che lei pensa e lei trova assurdo che la Pascale si occupi di politica, diciamola tutta, cioè che metta becco nelle cose di politica. È una cittadina italiana. No, d'accordo, d'accordo. Come tale ha tutti i diritti a occuparsi di politica. In generale sì, ma che metta becco nelle cose del partito e che abbia voce in capitolo anche fondamentale a decidere. Guardi, scusi, perché lei mi vuol coinvolgere in una cosa dalla quale sono uscito. Perché io sono un po' stronzo. Io mi congratulo con me stesso di essere uscito da un partito, diciamo così, con un andamento eccessivamente centralizzato. Centralizzato su che? Centralizzato, pascalizzato, nella gestione di pochissime persone. Una volta che ci sono uscito, come dire, lo valuto sul terreno politico per quello che posso, ma è stata la decisione più, per quello che, posso non condividere, certo. E reputo anche che al punto in cui si è, in effetti ci vorrebbe una grande dialettica democratica. Comunque, ma questo è un parere mio. No, beh, certo, all'interno di Forza Italia, dice lei. Però diciamo la verità, è stata una delle più delle decisioni più fondate della sua della sua vita politica, cioè non la rimpiange assolutamente, una delle decisioni. Una decisione assai difficile. Sì. Però non me ne pento perché c'era un dissenso politico molto motivato. Senta, Parenzo, tu devi sapere che Salvini... Perché... No, tu devi sapere che io sono in un angolo dell'ufficio, in un angolo, c'è l'onorevole Cicchito nella sua sedia, aveva tutti un sacco di libri, cioè, questo ti voglio dire, è un ufficio bellissimo, pieno di libri di storia. Vabbè, è normale. No, ma pieno, perché come dici, Cicchito, pieno di libri sulla storia, su Stalin, su Lenin, tutto c'è. Allora, però io eravamo partiti da un'altra cosa, dalla copertina di oggi, poi ci è sfuggito il discorso. C'è Salvini mezzo nudo, nudo. Ormai siamo arrivati a questo: c'è Salvini con la cravatta verde e a petto nudo, con un po' di peli in vista, le ascelle e tutto. Non è entusiasta, Cicchito. Ma le assicuro. Non sembra uno spettacolo particolarmente brillante. No, ho capito, però è la realtà. Qui siamo alla, ormai alla. Cioè, Salvini è presente in qualsiasi trasmissione del globo terracqueo. Su questo non c'è dubbio. Se lei. Io mi sveglio presto la mattina, tra le 5 e le 6 c'è Salvini, poi abbandono la televisione, la riprendo intorno all'ora di pranzo e trovo Salvini, poi la sera torno a casa e giro tre trasmissioni e c'è Salvini. Sai quale dubbio ho? Quale dubbio? È che sono tre fratelli gemelli. Cioè, perché è impossibile, dice, come fa a fare l'eurodeputato, il leader della Lega, andare in televisione? Beh, oh, magari ha delle capacità particolari, o no? Ha delle capacità particolari, a meno che non c'è questa cosa di tre fratelli gemelli che impazzano su tutta la scena mediatica. Tre cloni. Comunque, lei andrebbe in vacanza con Salvini? Vacanza con Salvini per due fare giorni. Dei cori di montagna, sì. E ma le sta proprio antipatico, diciamo la verità. Salvini le è sempre stato antipatico, sì, questo assolutamente suo... non mi sta antipatico. Mi sento molto distante da lui sul piano politico e anche sul terreno di questa aggressività mediatica che poi può portare anche a cattive conseguenze. Però i voti si prendono anche così. Insomma, Berlusconi, lei è stato alleato di Berlusconi, è stato con Berlusconi. Bisogna vedere quanto durano quei voti. Ho capito, ma Berlusconi ha fatto della campagna elettorale, della mobilitazione, anche delle parole forti, il suo cavallo di battaglia. Adesso... Capito, stiamo parlando di un genio della comunicazione. E invece Salvini siamo a livello di... Salvini è la traduzione, diciamo così, assolutamente artigianale e univoca. Berlusconi suonava un pianoforte, Salvini suona un trombone. Però le voglio dire un'altra cosa, Salvini, cioè non è un caso che stiamo parlando di lui, qui siamo di fronte... No, è lei che ne sta parlando in modo ossessivo. Beh, ma ho capito, ma Salvini... Secondo me c'ha una perversa... perversa tendenza sessuale verso Salvini. No, quello no. Per quello... caso sbandierando questo Salvini seminudo oggi... Ha colpito moltissimo, dica la verità. Sì, mi ha colpito molto perché è come fronte della comunicazione. Salvini nudo non me l'aspettavo. Salvini nudo sulla copertina non me l'aspettavo. Tra poco lo vedremo come. Ha avuto con lei un successo quasi simile a quello della signora Le Pen. Bah, no, questo non esageriamo. Non ho ancora... Però ha vinto in un ballo, no? No. Non ho ancora questo tipo di perversioni, ne ho altre. Attenzione che stiamo entrando in un filone che ci comporta un attacco per omofobia, quindi fermiamoci qui. Per carità, esiste la lobby gay secondo lei, Cicchito? Una lobby gay che insomma mediatica, politica? Esiste una solidarietà fortissima fra gruppi. Io mi ricordo, insomma, gli omosessuali negli anni 60 avevano una vita molto difficile. Adesso c'è un'aggressività che talora è anche direi eccessiva. Cioè di gruppi gay nei confronti di chi ha idee diverse? Beh, nei confronti di chi contesta il matrimonio, le cose eccetera, trovo che c'è una un eccesso di aggressività. No, ma questo può anche essere vero. Dunque esiste, però esistono dei gruppi organizzati che si possono chiamare lobby. Non c'è niente di male, però esiste una lobby gay. Io non la chiamerei lobby. Non la chiamerebbe lobby, che fa brutto chiamarla lobby, dice lei. Poi l'attaccano, le dico, hanno detto che c'è una lobby gay. Bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre stare attenti. Ma ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi di nuovo Cicchitto. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La Zanzara. Siamo ad alti livelli qua, Cala. Senta, l'ultima cosa, il Presidente della Repubblica, vabbè, non abbiamo parlato, ma però ne parliamo adesso. Ma c'è questa. Ci questa. Mancava solo questa. Ecco, e su questo sono d'accordo con lei, devo dire. Certo. Cioè, che ci fa un direttore d'orchestra, pur bravissimo? Il direttore d'orchestra faccia il direttore d'orchestra. Dirigere un'orchestra è leggermente diverso che guidare un paese. Quindi, ognuno il suo mestiere. Lo ha detto anche lui, però come al solito si lascia sempre una porta aperta. Pare addirittura che ci sia un accordo, dicono, tra Renzi e Berlusconi. Io non ci metterei la mano sul fuoco. Ci manca pure questo. Ci manca pure che cioè, che si mettono d'accordo su Muti. Pensa se vi presentano, pensi Cicchitto, vi presentano Muti come candidato al tavolo delle trattative sul Quirinale. Che succede? Succede che va organizzato il voto a scrutinio segreto per cui non lo si fa passare. Capito, ma è chiarissimo. È troppo importante per la musica. Senta, invece è troppo importante per la musica. Beh sì, ma questa ha ragione, devo dire la verità. Ma non può, il Quirinale, uno deve risolvere le crisi di governo, fare delle nomine, guidare pure l'esercito quando è il caso, adesso lo dico in generale. Andiamo a prova d'orchestra di Fellini, guarda. Ma su questo devo dire alzo le mani, per carità. Ma che figura, tutti dicono questa stronzata, mi scusi la parola, tutti dicono questa stronzata all'uomo che rappresenta il paese. Questa è la solita buffonata che si dice, è sempre un accordo politico. C'è un accordo politico, punto. Allora c'è un accordo politico, perché mettere insieme tutti quei voti in Parlamento non è semplice. Poi ci vuole che ci sia un personaggio che abbia, e non ne vedo molti in giro, che abbia caratteristiche simili a quelle di Napolitano, di conoscere i problemi del paese, di averci l'autorità per intervenire, perché questo non è che è un paese che e dunque non può essere Muti. Ma Veltroni secondo lei? Beh, adesso lei non mi attiri in trappole. Ma che trappole? Io ho fatto un nome. Stiamo parlando di Muti, Veltroni poi vediamo dopo. Veltroni però. Amato. Però uno. Giuliano Amato. Ecco, Amato è l'unico nome che è stato fatto fino adesso da Berlusconi. Ex socialista come lei, Giuliano Amato. Per voi andrebbe bene, per lei, insomma. Per me andrebbe benissimo. Amato andrebbe benissimo, però mi sembra che se lo fa Berlusconi il nome è bruciato già, o no? No, appunto sono rimasto un po' sorpreso, poi mi dicono che non aveva intenzione di bruciarlo, quindi per carità, togliamolo dai reparti grandi ostinati e riportiamolo. Va bene, grazie. Buona serata, arrivederci. Allora vi faccio sentire una cosa adesso, caro Parenzo. Intanto allontanati da quella Camera dei Deputati nefasta e velocemente fai ritorno sulla tua plancia lì a Radio 24. Com'è stato l'incontro con Cicchitto? Che sensazione hai avuta? Il vecchio Fabrizio Cicchitto, che è uno che ha fatto miliardi di legislature, cioè, che c'è? Chi stai salutando? Il taxi. Com'è andata? Sì, ma non paghiamo noi, non paghiamo noi. Come è andata? Sì, ma adesso li controllo gli scontrini che fai, se te li fai rimborsare o no. L'ho trovato in grande forma, carichissimo Fabri, carichissimo compagno Cicchitto, veramente. Beh, è una brava persona Fabrizio, devo dire. Ma adesso sei arrivato a dire, cioè l'hai attaccato quando pubblicava i libri sulla giustizia, adesso sei arrivato a dire perché sei praticamente alleato con lui, che sei una brava persona. Perché chiunque si mette contro Berlusconi diventa una brava persona. Guarda che sei incredibile. Ma come no? Chiunque si mette contro un politico interessante con cui combattere. l'ho sempre giudicato un politico interessante con cui combattere. Secondo te chiunque si mette contro Berlusconi diventa interessante, dai, su, ma questo è il punto. Ma non è contro manco per niente, perché come vabbè, vi faccio ascoltare una roba, i signori di Forza Nuova, i tuoi amici di Forza Nuova. No, ecco, questo ti querelo anche a te, è il trucco. I tuoi amici di Forza Nuova? No, amici un corno, guarda. I tuoi amici di Forza Nuova? No, un corno, amici proprio, guarda, questo non dirlo neanche per scherzo, amici proprio per niente. Vabbè. Neanche gli ho stretto la mano, guarda, ti voglio dire questo. La settimana scorsa stavo andando, ero in stazione Termini, io sì. ho incrociato il signor Fiore, che non è un fiore in realtà. Sì. Che ha il nome Fiore, ma non è un fiore. No, non è un fiore. Politicamente anche non è un fiore. E non ha nulla a che vedere con la canzone di De André che diceva dall'etame non nasce niente, dall'etame nasce un fiore, perché non è quello il caso. Cioè, ma gli stai dando della merda praticamente, perché hai detto dall'etame, come no, è uguale. De André, no, ho detto che mentre De André cantava dall'etame nasce un fiore, e tu stai dicendo che invece dall'etame, cioè fiore non... Quindi vuol dire che non è nato dall'etame. Perché non è nato un fiore, allora? In realtà, perché non è un fiore. Che è successo? Non gli ho neanche stretto la mano, l'ho incrociato. Ma questo, detto, ma sei perché sei, ma perché sì, sei no, maleducato? Non mi sono fermato neanche. Ma sei maleducato, sei maleducato. No, ma che maleducato un corno. Stringi la mano, lui ti voleva stringere la mano. Sì, decido io. Lui è passato, siamo incrociati, io non gli ho neanche stretto la mano e sono orgoglioso di averlo fatto. Mamma mia, che cosa. Comunque, questi signori di Forza Nuova che cosa hanno fatto? Una cosa ridicola, una specie di numero verde dove uno può chiamare e segnalare se nelle scuole dell'Italia, nelle scuole del nostro paese. Il numero che chiamo adesso. Aspetta, con calma, con calma, con calma. Se nelle scuole del nostro paese qualcuno fa propaganda omofoba, propaganda gay. Cioè, se uno insegna, che se un insegnante dice qualcosa sugli omosessuali, se dice che siamo tutti uguali, se dice che bisogna sposarsi. Le grandi iniziative di Forza Nuova. È una puttanata inaudita, non c'è bisogno assolutamente di questo numero verde. Fare un numero verde per denunciare quelli di Forza Nuova bisogna fare. Vabbè, adesso stai esagerando. Anzi, se nelle vostre scuole avete presenze di Forza Nuova, chiamate il numero 800. No, ma manco per il cazzo, ma che dì, ma sei impazzito, ma assolutamente, ma chi se ne frega? Ma è un partito Scusa, abbi pazienza, però Forza Nuova è un partito presente nello suo scenario politico, nessuno l'ha dichiarato fuori legge. Comunque sentiamo sta segreteria che dice, dai. Grazie per aver chiamato Forza Nuova per la difesa della famiglia. Siete a conoscenza di iniziative di propaganda omosessualista nelle scuole dei vostri figli? Lasciate il vostro nome e il vostro numero di telefono. Prenderemo in carico la vostra segnalazione e vi richiameremo più presto. La vostra e le altre segnalazioni contribuiranno alla creazione di un libro bianco che denunci l'aggressione alla famiglia tradizionale e alla salute dei nostri bambini. Difendete i vostri figli. Non siete soli. Registrate il vostro messaggio dopo il segnale acustico. Al termine della registrazione, riagganciare o premere 0. La cosa più interessante di questo messaggio era la prima voce, che mi sembrava piuttosto erotica anche. Cioè, vorrei... La salute dei vostri. No, ma vorrei conoscere questa ragazza che ha una bella voce, devo dire la verità. Sarà una militante probabilmente, ma era la cosa più interessante di questo messaggio. Poi c'era una serie di puttanate, la propaganda omosessualista. Ma non c'è nessuna propaganda. Qualche volta c'è qualche svitato che dice delle stronzate ai ragazzini. Io sono contrario al fatto che qualcuno dica a ragazzini di 7 anni, 8 anni che parli di matrimonio gay o queste cose qua. Sono totalmente contrario, perché uno oggi ha la possibilità di farlo su internet. Non c'è bisogno che un professore a scuola e dica cose sul matrimonio omosessuale o sul sesso tra i gay. Ma cosa intendono questi qua? Che non si deve leggere Pasolini, ma che c'entra? Non si devono leggere i grandi classici. Poi parlano di aggressione alla famiglia tradizionale, una serie di cose assurde. Comunque domani ci pensiamo. Dammi il numero. Ci penso io. Aspetta, Alessandro da Udine. Aspetta, io. Alessandro da Udine, fermo. Ciao, scusami, ciao. Allora, io ho una proposta risolutiva per l'elezione del Presidente della Repubblica. E qual è? Musicista per musicista, io candido ufficialmente Vasco Rossi. Sì, Vasco Rossi. E adesso dai, voglio vedere chi parliamo. Si dichiara contrario. Dai, su, ma sarebbe buono. Ma che così buono, dai, che vogliamo trasformare il Quirinale in una sorta di. Ma dai, avete di fare le consultazioni, fa Serissima, Parenzo. Come? Allora, così facciamo vedere come al Quirinale si può vivere una vita spericolata. Vabbè, ma non possiamo scherzare, ma possiamo giocare e scherzare finché poi... Ma che scherzare? Vasco Rossi è una persona serissima, perché Riccardo Muti sì e Vasco Rossi no, insomma stiamo Ma infatti anche Riccardo Muti secondo me è una follia totale, cioè una totale follia, l'ho detto anche a Vittorio Sgarbi prima, lo ripeterò assolutamente, può essere un'idea Vasco così Rossi, per scompaginare, Rossi, per fare Vasco casino, Rossi. Tutto quello che vogliamo, ma... Vasco Rossi è molto meglio, Vasco Rossi. Ma se lei lo immagina Vasco Rossi alle prese con le consultazioni di governo? Va bene Vasco Rossi, io candido Renato Zero e poi candido Gianni Morandi. Vabbè, ma lei è un po' fumato, che ha fatto? Alessandro? No, niente. Bevuto fumato, qualche cicchettino, a Udine, eh? Ah, che cicchettino, magari. E che fa, non beve lei? No. Non beve? Francamente no. L'unico friulano che non beve, non tocca alcol. Se il fegato che non funziona, non me lo posso permettere. Beh, quella è una cosa grave, come mai il fegato non funziona? Ha fatto l'età. Solo l'età, no? Non è che l'età. Nel passato certo. Non ha combinato niente, no? No, sono 70, sai, Alessandro, provincia di Pisa, ciao caro. Ciao. Alessandro, provincia di Pisa. Pronto. Dimmi, caro. Cruciano, io sai, è un'ora che sono che devo fare? Dire quattro parole per spiegarti la differenza tra Sinti e Roma. No, però la differenza tra Sinti e Roma non ce la posso fare, amico mio. Che no, mi devi dire? Io lo so, ma lo so che c'è una differenza tra Sinti e Rom, però... Ma te lo devi spiegare. Ma qui non è il coso, amico mio, però non è un simposio, non è una lezione universitaria qui. No, fammi parlare. Dimmi, dai. È un'ora che sono in diretta. Perché praticamente il Sinto e il Rom è tutta un'altra cosa. Ma lo sappiamo che è un'altra cosa. E anche te sei un pochino Sinto. Nel tuo modo di fare. Io non sono Sinto, guarda, non sono né Sinto né Rom. No, tu modo di fare, assolutamente, io sono Sinto. E no. Tu sei Sinto? Vabbè, sei Sinto, qual è il problema? Oh, fammi parlare. Rispetti le leggi? Rispetti le leggi? Dove abiti? Sì, ti posso dire che ho due femmine, sì. Una fa il liceo scientifico. Ma dove abiti? In un campo o in una casa normale come tutti quanti? In una casa adesso. Oh, in una casa, in un appartamento la che vita, vai a cercare... La vita mi ha dovuto cambiare perché come quelli come te... Dicono che i Sinti sono delinquenti. Ma io non ho detto che sono delinquenti. Ti denuncio, guarda, veramente ti denuncio. Sto. Mi puoi insegnare anche a me. Senti, amico mio, io non ho mai detto che. Non ho mai detto che i Sinti sono delinquenti. Senti, parlare come te. Alessandro, io non ho mai detto che i Sinti sono delinquenti. Dunque, non dire cazzate, per favore. Come no? No, mai detto che sono delinquenti. Mai. Allora, io a me i Rom non mi stanno simpatici. Non so neanche da dove vengono questi Rom. Io sono figlio di due cugini. Perché i Sinti si sposavano anche tra cugini, sono un puro Sinto. Ho cambiato vita, sono quasi un imprenditore, ho tutto quello che serve per dire che sono una persona normale. E beh, allora è normale. Allora dovrebbero starti sulle palle quelli che rubano. Hanno messo i rifiuti a Napoli, il buco che ha fatto Tanzi, il governo. Vabbè, ma adesso questo qua è benaltrismo, che vuol dire? Non è che non ci sono gli italiani ladri che fanno. Certo che ci sono gli italiani ladri. Soldi, tuo modo di campare è questo. Scusa. E va bene, almeno mi dai noia. Però racconta le cose giuste come sono. No, ma scusa, senti, Alessandro. Paga i diritti ai Rom, a forza rammentarli i Rom, paga i diritti. A me lo dici veramente per qualcosa, perché fate una confusione, fate del razzismo. Io un'ora che sono. Ma chi? Fermo un attimo, resta lì, fermo. Devi restare lì, fermo, che ho la pubblicità. Resta lì, non te ne andare. La Zanzara. Allora, in molte trasmissioni televisive recentemente, caro Parenzo, sei arrivato? Che corsa? Beh, stupendo, come hai fatto? Taxi, sono 5 minuti dalla camera, spettacolare. 7 euro passa la paura. Adesso però ti faccio ascoltare una cosa. 7 euro passa la paura. Ti faccio ascoltare la tua amica Diana Pavlovic, che è presente ormai in moltissime trasmissioni televisive, perché fa la parte, adesso lo dico, mi attaccheranno, cioè fa la parte. No, non fa la parte di niente. Aspetta, ma me lo fai dire o no? Scusa, sei diventato aggressivissimo, quasi come me. Fa la parte della Rom Bella. Viene invitata alle trasmissioni televisive perché è la faccia pulita dei Rom. Hai detto due cose, intanto l'ho invitata io per primo. No, tanti anni fa, lo so, ma è la realtà questa. Poi, ma non lo dico con non Telese lo dico, a Matrix. Ma non lo ma dico non in senso negativo. Guarda non... che siete bei tipi voi. Ma scusa, non ho capito, non si può dire perché una cosa del genere. Perché ti piacciono i Rom col dente giallo? No, ma io lo dico, viene invitata in studio col da... Col vestito de o tutto... Ma a te piacciono quei vestiti, per esempio? A te piacciono? Ma non mi piace, non è che mi piace, non è il mio gusto, diciamo. Per esempio, la famiglia, quella che si è fatta fotografare insieme al presidente della regione. Toscana. Ma sarai bello tu che vesti tutto di nero, ma ognuno potrà vestirsi come gli pare, oggi non no? sono vestito di nero, come un cielo del malaugurio, tutto di nero tu ti vesti, perché stai scherzando. Quella foto lì erano vestiti in maniera terribile, diciamo la verità, non è il nostro gusto, alla vista è una roba brutta, però perché non è il nostro gusto, ma voglio dire, è un gusto diverso. Comunque, adesso stavamo parlando della Pavlovic, che la vedete spesso nei programmi perché rappresenta, diciamo, il volto aggraziato dei rom, diciamola tutta, è così, non è che viene invitato in studio uno cordente. Inviterei d'oro, anche quelli col certo, inviterei anche quelli. Però invece inviterò lei perché è bella, una bella ma donna. Ma no, perché è la portavoce, che è sì, una vabbè, che sa parlare, sì, certo, che è stata appunto il volto, diciamo, pulito della comunità. Ma va bene, va benissimo, per carità. Non dico, si può fare un'osservazione. In questo paese però non si può dire più nulla che uno denuncia per razzismo. Ma no, qui non tribunale, c'è nessuna denuncia. Ma che dai, ma su, cioè, viene invitata perché è una bella donna, anche perché sa parlare, una bella donna e combatte. Infatti ha detto una cosa che per me è una stronzata pazzesca. Per esempio, che la situazione dei rom deriva dal fatto che ci sono il 93% di disoccupati e lo Stato deve fare qualcosa. Cioè, se i rom sono in quella condizione, dice lei, perché sono disoccupati al 93%? Vabbè, è una cosa pazzesca, dai. Siamo la minoranza più grande d'Europa, siamo 12 milioni di persone discriminate che vivono in queste situazioni, abbiamo 93% di disoccupazione nelle nostre comunità, la vita media della persona rom è 63 anni, di 20 anni più bassa di un cittadino europeo qualunque, e dunque siamo in queste condizioni. Sì, ma il dato del 93% di disoccupazione, cioè non è che sia, cioè, una roba, uno dice 93% di disoccupati, c'è una scelta di vita precisa, spesso. Spesso c'è una scelta di vita precisa dietro questa roba qua, perché molti non è che dicono vogliamo un lavoro normale da impiegati, non vogliono fare gli impiegati, concorsi, oppure cercare un lavoro presso qualche studio Guarda professionale. Ma non è vero. Ma allora, vabbè, allora cioè, ci sono dei ladri, è ovvio, e la polizia deve andare e deve poter entrare, ma io ho conosciuto proprio oggi, ad esempio. È uno stile di vita, quello di vivere in un certo modo, ma è uno stile di vita. Avete fatto diventare i rom il problema italiano. Ma no, ma chi ha detto che è il problema italiano? Incredibile. Allora, cari amici, io oggi ho incontrato Lorenzo, io ti invito a farlo. Ti posso dire chi Lorenzo se ne frega che ha incontrato lo Lorenzo Zingaro? No, perché mi sono anche twittato il signor, lui, come ti chiami, scusami, Lorenzo lo Zingaro. Hai incontrato Lorenzo lo Zingaro, che dobbiamo fare? Lo Zingaro, lo vedrai poi giovedì, forse a Matrix, nel campo di via Cesare Lombroso. E mi ha mostrato Lorenzo lo Zingaro, che tra l'altro è anche su Facebook, pensavo fosse uno scherzo. No, lui ha detto che per trovare lavoro ha dovuto negare di vivere in questo campo, non guadagna abbastanza per poter affittarsi una casa. E dice, se io, fa il giardiniere per conto del comune, mi ha mostrato un tesserino di Roma Capitale in cui è un ragazzo, Lorenzo lo Zingaro. Ma che vuol dire? Che a fianco ai criminali ci sono anche quelli che hanno voglia di integrarsi, su quelli bisogna lavorare. Che banalità che quelli dici, dell'Arci. Dici delle banalità spaventose. No, io dico una cosa che fa arrabbiare gli ascoltatori, quando dico che ad esempio l'Arci che lavora in quel campo, queste tre ragazze stupende che prende i soldi per lavorare passano, in quel campo, e ti credo, prende i soldi, ma ti credo, ma meno male persone, che li prende, mantiene persone, ma ti credo, tre persone che fanno un lavoro. Occupate, cioè mediatori culturali sono occupate a fare un lavoro socialmente utile, prima, che è quello di far integrare prima i rom. Poi bisognerà parlare di quelli che ricevono soldi per mantenere certe situazioni. Ma guarda, e che siete incredibili, no, aspetta, ma siete incredibili, e che interesse hanno a risolverle queste situazioni? Ma voi imprenditori della paura, lepenisti e lepeniani, sono affatto siete incredibili. Però fermo lì. È arrivata la sentenza che ci assolve. In realtà no, sono una, arrivate due sentenze, però due. La seconda lasciamola perdere, ne parleremo un'altra volta. Qui parliamo soprattutto di una sentenza. Qualche tempo fa abbiamo fatto uno scherzo radiofonico al signor Pier Giorgio Odifreddi, noto matematico nonché editorialista del quotidiano La Repubblica. Dire antipapista, dire anti-Vaticano, dire anticlericale, dire poco riguardo a Odifreddi, che dice delle cose pazzesche, ha sempre detto delle cose pazzesche sul Papa, della religione cattolica, eccetera, eccetera. Noi lo chiamammo con un finto Papa Bergoglio, interpretato da Andro Mercur. Uscì fuori un quadro incredibilmente ironico, a dir poco, del signor Odifreddi, il quale si prostrava di fronte al Papa, si prostrava totalmente, addirittura parlava solo lui, praticamente il Papa non ha mai parlato, parlava solamente Odifreddi, e addirittura chiese al Papa Bergoglio, che cosa? L'introduzione al suo libro, cioè cascò nello scherzo.

amico mio. Beh, amico mio. Assolti! Assolti! Vabbè, guarda. Assolti! No, scusa, mi verrebbe. Sì, che assolti! Tu quando c'è da perdere. Ti prego. Assolti! Assolti! Sì, ma non ti levava, assolti! Non ti levavano i soldi, amico mio. Non ti toglievano no, i soldi. Ma lo stesso. Assolti! Assolti! Assolti! Non ti levavano i soldi. Scusami, calmo. Mi a me verrebbe fare prego, dei gestacci verso qualche persona, però. Assolti! Vabbè, stai calmo. Assolti! Scusa, scusa. Non so cosa mi è successo, ma. Appunto, ti prego. D'accordo. Ti prego. Assolti! Assolti! Se non fare battutacce sulla Marchi, non fare battutacce sulla Marchi. Lei no, lei non è stata assolta. Dai, su. No, scusami. Adesso che c'entra, è così poveraccia. Una brava persona, scusami. Che c'entra, scusa, dai, è su. È così brava, è una brava personcina. Vabbè, adesso ha quasi finito di espiare la sua colpa, certo, signora Marchi. È così una brava persona, guarda. Dai, su. D'accordo. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Eccone un altro lì. Eccone un altro. Mauriano, chi è Mauriano? Uno come si fa a chiamare Mauriano? Vabbè, dalla provincia di Venezia. Allora, ragazzi, si chiama Mauriano. Ma che male c'è che Mauriano? Vabbè, comunque Mauriano, anzi, sentiamo anche Mauriano, dai. Mauriano. Oh, ciao. Ciao, dimmi. Ciao Cruciari, sono Lauriano, non Mauriano. Ah, Laura, perché mamma non è che sei Lauriano. No, Mauriano. Ma, anzi, forse paradossalmente Mauriano è meglio. Cioè, Lauriano è Lauriano, abbastanza incomprensibile. Comunque. Cruciari, ma perché uno si chiama Lauriano? Scusa, perché uno si chiama Lauriano? Spiega. Vabbè, poverino. Però. Cioè, l'hai chiesto ai tuoi genitori? Questo mio, no, il mio nome è Lauriano. Sì, ma l'hai chiesto, sei nato in? In Romania. Ah, in Roma, perché in Romania si chiamano Lauriano, non ho mai saputo. Sì, so parecchi che sì. Sì, ma è la traduzione italiana di qualche altro nome? No, Lauriano, proprio no. Lauriano, in Romania. Vabbè. È un latino, sì. Ascoltami, no, una domanda. Si apprendono sempre cose nuove qui alla Zanzara. Sì, beh, certo. Ascoltami, no, una domanda, ma sinceramente, dai, ascoltami. Cioè, beh, sinceramente, ti ascolto, sì, ti prego. Quel pseudo giornalista, cioè, esiste o c'è, dai, un cartone animato? Quello, ma no, chi? No, no, chi? Parenzo, come si chiama? Ma pure i romeni ti attaccano, David. Pure i romeni. Dai, su. Io pensavo che gli stranieri fossero dalla parte tua. Non può essere così. Uno che ragiona così, dai. Ma su che cosa? Sui rom? Sui rom? Sui rom, su tutto. Vabbè, voi i romeni, voi i rom non li potete vedere, Questo bisogna dire. Io mi ricordo, no, ma sinceramente mi ricordo 40-50 anni fa del discorso dei rom. Sai cosa facevano i romani? Vendevano, perfino rubavano i tombini dei canali. Sì, magari lo fanno macchina, i tombini dei ma anche adesso lo fanno i tombini. Ho visto che sono spariti tutti i tombini in un campo rom, non so. Bravissimo, bravo. I segnali stradali, tutto. Ma voi in Romania andate per le spicce con i rom, altro che sì, altro che. E che bisognerebbe fare secondo te allora, Lauria? La corrente tutto quanto, niente, da fare cosa? Da mandare giù, da mangiarsi il fegato e basta. No, con i rom che bisogna fare secondo te, Lauriano? Niente, cosa da fare? Che ne so. Cosa vuoi fare? Niente, non neanche non si può dire niente, perché dopo, per carità, cioè, no, devi dire quello che pensi qui, adesso non ti fare intimorire da questi qua, da Parenzo, no, da questi avvocatuncoli. No, a parte questo, no, ma il discorso da paura, il discorso che cioè, ormai vabbè, amico mio, però vabbè, adesso ti devo lasciare con la pubblicità, no, ciao. Il discorso del Parenzo che diceva che tira tanto, cioè, io vorrei, c'è una curiosità da vedere una busta paga o sì. Non so, un 740, un unico su un campo rom. Domani penso che nevica, sono 3 metri da neve. Ah, cioè non esiste una busta paga. Non ho mai sentito, no, non esiste. Secondo non me esiste, questo pure è interessante, Parenzo. Cioè, contribuiscono in qualche modo con le tasse o no? Questo è un altro punto, o no, Parenzo? Guarda, Lorenzo, guarda, quello dice Cecchitto. Fermo un attimo, che abbiamo la pubblicità. Guarda, la Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la visione. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Facciamo ascoltare un po' di cose che ci siamo lasciati per strada, Parenzo, partendo da che cosa? Dalla polemica nei 5 Stelle. Allora, ieri sera guardavo Piazza Pulita, a un certo punto è spuntata questa telefonata un po' rubacchiata, fatta da Renzi al deputato Artini, no? Sì, al dissidente lì. Sì, ma non capisco perché Artini se la piglia con la trasmissione, se c'è la telecamera, cioè, si può fare tutto, cioè, quello se la prende se ne va facendo una piazzata. Questa è la prima considerazione. Quando ci sono le telecamere, sì, hai fatto una battuta del cazzo. Quando ci sono le telecamere, uno deve stare attento a tutto, come quando rispondi al telefono, no? È la stessa cosa. Cioè, Poi non capisco. No, che poi tra l'altro lo dice anche sono microfonato. Non è andato esattamente così, perché lui sembrava ostentasse la chiamata di Renzi. Sì. Se tu hai visto bene. Poi, lui poi dice, ha detto non l'ha mandata in onda, quelli l'hanno mandata in onda. No, ma sai come si fa quando uno si esalta, oh, guarda chi mi ha chiamato, sì, no? Come sì, dire, sì. Sono importante. Cioè, sembrava un po' così, quindi di che si arrabbia, scusa? Poi l'altra cosa è questa. È evidente che Renzi sta cercando di corteggiare qualcuno dei 5 Stelle. Voi potete immaginare se avessero beccato una telefonata di Berlusconi a uno che è appena uscito da un gruppo parlamentare, in questo caso dei 5 Stelle. Compravendita, vergogna, vuoi comprare il Parlamento? Questa volta passa inosservata. Tu spiegami il motivo, è vero che non accompagna le medie, pare, ma spiegami il motivo per cui Renzi, il giorno dell'espulsione di un semplice deputato, quello è il Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che c'ha il paese, chiama Artini. Ma perché devi chiamare Artini? Ma che ti frega di chiamare Artini? Ma magari c'è un motivo. Ma se l'avesse fatto Berlusconi, avrebbero già accusato di compravendita dei parlamentari, sì, di vergogna. Questo è molto vero. C'è una piccola differenza che riguarda semplicemente il fatto che sulla vicenda della compravendita dei parlamentari, un signore. C'è De Gregorio. No, c'è un procedimento giudiziario. Cioè De Gregorio ha detto di più. Ma perché devi andare sempre nello specifico? Io non sto parlando dell'inchiesta giudiziaria su Berlusconi. No, perché se no uno dice perché perché in una situazione uno indagato e l'altro no? Perché il mercanteggio dei deputati si è sempre fatto. Io sto parlando politicamente del mercanteggiamento, non della cosa giudiziaria. Sei sempre fissato coi giudici tu. Tutto, no, riporti, ma non tutto sono ai giudici. Fissato coi giudici, solo per inquadrare la questione. Vabbè, comunque allora, Artini attacca Formiglia e dice è un'informazione indegna, me ne vado. Io, per me Piazza Pulita, per esempio, è la migliore trasmissione che c'è in questo momento di talk show. Questo è il mio parere personale. Comunque, via. Per me. Vabbè, per te è Matrix perché ci lavori. Comunque Artini. Ti sollevo da questa incombenza. Ti sollevo io da questa incombenza. Lei ha parlato con Renzi. Sì, perché ma non siamo... c'è, guardi che non c'è niente di. Non c'è niente di clamoroso. Non è che stiamo parlando così di un come pericolo. Ho parlato. Cioè, lei non si deve scusare, non ha ammazzato nessuno. Non mi sto scusando. Stia tranquillo. Non mi sto scusando, ma questa cosa è indegna. Quale per cosa? Questa. Di allora, prendere scusate, una parte in cui. Voglio spiegare no, ai telespettatori. Formigli, voglio spiegare io. No, no, adesso spiego io. Come spiegare? Adesso spiego io, se no. Scusi. Presidente adesso spiego io, poi Commissione le do la parola. Europea Mogherini, lei come ha chiamato il capo di Stato Maggiore della Difesa e altri sottosegretari per denunciare questa situazione scandalosa. Questo modo di fare informazione è scandaloso. Io la ringrazio e buonasera. Allora, scusate, qua nessuno ha capito. Avete capito qualcosa voi? Ho capito, voi? Sì. Mamma mia, che brutta fine che stanno facendo questi qua. Stanno facendo una brutta fine, presi tra scontrini, Grillo che è stanchino. Qui parla l'elettore, Grillino o il giornalista? Forse non ha capito, io sono come Feltri. Quando l'altro giorno, quando abbiamo fatto la diretta, ha detto io quando voto metto dentro il foglietto con l'indicazione e il giorno dopo non è che sono targato a vita, cioè è un gesto che uno fa in quel momento. L'elettore Grillino, ma o il giornalista? Che elettore Grillino, ma non dico, non esistono Grillino. Gli elettori esistono, le singole persone che appunto, in quel momento votano scelta, ma appunto. Sì, ma per mille quindi motivi, quindi lo dici da deluso elettore, ma che Grillino, ma state deluso, ma dai, su, ma in parte ovviamente mi aspettavo altro, non c'è dubbio, capire. Ma aspettavo da deluso elettore Grillino, ma non deluso, ma lo deluso è la tua traduzione, dai, su. Giustamente. Però fammi parlare con una persona che è molto più interessante di te, che si chiama Lori del Santo. Ciao molto Lori, bene. Buonasera. Ciao, ciao. Come stai, cara? Che parlantina che avete. Basta. Ma io la ricordo dal drive-in, guarda, sono cresciuto. Ma che c'entra drive-in? La... Sono passati 25 anni adesso. Io la ricordo al drive-in. Posso dire una ma cosa? Ma sì, ma è più bella adesso di prima. Io la ricordo da ragazzino al drive-in. Tu ti senti più bella adesso oppure... mamma mi facevano vedere. Lori? Io penso che finché qualcuno ha bocca vuol dire che va bene. Sì, e mi sa che da quello che hai detto un sacco di persone ancora boccano, soprattutto young, soprattutto giovani. Sì, devo dire ancora siamo sull'onda. Sei sull'onda, ma tu sei ancora magrissimo, cioè non prendi un etto, ma come mai? Mi sta chiamando. No, prendo qualcosina. Sono in diretta alla radio. Strategici. Ah, cioè dov'è che prendi? Perché so, quando si ingrassa oramai si mette tutto nel seno, nel sedere, non so. E invece tu? Anch'io, anche li metto tu lì, quindi diciamo che mi preferiscono in questa versione un po' più rotondetta. Cioè, ti si ingrossa il sedere e anche le tette? Sì, a me sì, non so le altre. A me è proprio un'esplosione, anche... aumento una taglia di reggiseno. Beh, le tette di solito no, non si ingrassa con le tette. No, ingrassano tantissimo, proprio sì. Aumentano a vista d'occhio, sì. Ma le tue? Sono esperta. In genere nelle donne aumentano quando uno ingrassa? Quando uno si ingrassa tutto ovviamente, ma in particolare il seno. Parenzo, tu sei a conoscenza di questa cosa? No, guarda, nel dettaglio dell'ingrassamento delle donne, cioè, nel dettaglio lo apprendo ora dalla signora del Santo, sì, che è veramente benissimo. È un santo la signora, no, santo del proprio santo. No, santo no, non si può dire che è santo, però di questa problematica diciamo non si è a conoscenza. Possiamo indagare, possiamo riaggiornarci in un'altra sede, un'altra seduta, assolutamente sì, diciamo diamo una, come dire, lanciamo questa cosa, voi donne che siete in ascolto, dove ingrassate di solito, esatto. In quale punto del corpo di solito, guarda. No, ma è un argomento serissimo di cui si occupano tutti, altro che politica, cara certo. Lori, sono cose fondamentali, certo. Sono queste qua, certo. Quelle di cui si occupano le persone ogni giorno, le preoccupazioni della gente, eccetera. Certo. E io, da quello che so, le persone ingrassano soprattutto nelle cosce. Nei le cosce, fianchi? Il sedere anche, le cosce. Le maniglie dell'amore, quelle che hai tu, ad esempio. Invece tu nel sedere, cosiddetto culo, e, nella, sì. E nelle tette. Vabbè. Soprattutto nel seno, sì. Senti, voglio dirti una cosa, ma hai visto per caso la copertina di oggi con Matteo Salvini mezzo nudo? Sì, l'ho vista, beh, sembra un po' Marilyn Monroe i primi tempi, non so. Ma addirittura Marilyn Monroe i primi tempi? Un po' eccessivo forse. No, sì, ma ti è... forse sì, eccessivo, beh. Beh, però, no, dai, che eccessivo. Ha la stessa posizione, se ben ti ricordi. Ah, è vero. È vero, la stessa posizione, non è sbagliata come cosa. Sì. Ma che a te che sei una che il maschio lo guardi, no? Troppi peli, troppi, soprattutto sotto il braccio, l'uomo non va più così, deve... trim si dice in inglese, bisogna non toglierli totalmente, lasciare, ma accorciarli di parecchio. Cioè, troppi peli, troppa foresta, troppi. Troppa foresta. Sulla barba va bene, ci sono i punti strategici dove vabbè, ma le ascelle un pelo lungo 5-6 centimetri, no. Parenzo, hai capito com'è il punto? Sì, io non amo la depilazione, devo dire la verità, cioè tu gli uomini li preferisci depilare, la barba va bene, però depilati sul corpo. No, non totalmente, non totalmente. Deve essere una cura, un accorciamento, chiamiamolo. Accorciamento, invece cioè, Salvini ti pare un po' bestia a questo mamma punto. Mamma mia, ma cos'è? Cioè, sembra... Ma cos'è? Cioè, ma, no, dai ragazzi. Cioè, però non è un brutto uomo, dai Lori, diciamo la verità. No, tra i politici. No, lui ha quella rotondità dell'abbondanza... Che non si sa da dove deriva, forse non si capisce se sta troppo seduto al ristorante e quindi non lavora, oppure se cos'è, insomma, sai, a volte uno è godereccio e basta, ma sì. Però lui è un uomo che se dimagrisse un 7-8 kg fa la sua bella figura. Direbbe la sua, sì, io lo conosco abbastanza bene, devo dirti la verità che alle donne piace, alle donne, esatto, un piacione. Alle donne non dispiace, diciamo che un po' ha questa faccia non particolarmente maschia, forse, un po' da bambinone, no? Che dici? Sì, beh, uno come lui con parecchi soldi già farebbe la differenza. Beh sì, diciamo che per te i soldi sono importanti, eh? Beh, uno come lui intendo, se non sei bellissimo devi recuperare da altre parti. Da altre parti, sì, da altre parti. Ma tu quello che dice, ti piace come leader politico è quello in ascesa di cui si parla adesso? Noi, Sì, io trovo che abbia molto carattere, che sia l'unico che si distingue da Renzi, insomma, che ha coraggio. Ma lo voteresti tu? Lo voteresti? Di avanzare, no? Trovo che le sue posizioni sono un po' studiatelle al tavolino, cioè come dire, ho fatto un'inchiesta, tutti dicono non mi va questo e lui dice ok, lottiamo contro questo. Non mi sembra, ecco, che le sue posizioni siano indirizzate a una vera politica mondiale, cioè mondiale, guardiamo il futuro. Eh sì, perché l'Italia, capito, cioè, siamo parte dell'Europa, parte del mondo. Ah, tu dici troppo ristretta la visione, cioè, ristretta. Bisogna, quando si prendono decisioni politiche, non solo guardare le proprie tasche o quanti ti votano, bisogna pensare all'economia del paese in funzione al mondo, di uno sviluppo al mondo economico futuro per le nostre generazioni future dei ma questi vogliono solo prendere i voti, questi prendono solo i voti, vogliono solo prendere no i voti, questo no quell'altro, ma quando si sono fatti nella vita degli investimenti anche sociali, investimenti economici enormi, non si può il giorno dopo dire no, oggi mi dico no a questo quando si sono già investiti miliardi, cioè no, cioè uno deve essere anche certo. Un attimo, però c'è Michela da Milano che è un'ascoltatrice che mi sa che su questa storia dei peli è d'accordo con te, vero Michela? Che dici? Buonasera Cruciani. Ciao Michela, che dici? Sono d'accordo con la signora del Santo. Lori. con l'Odici, perché il pelo sotto l'ascella è un po' troppo lungo. Quello, ma... che, quello che stona in Salvini è il pelo sull'ascella. Fatemi rivedere posta copertina maledetta. Scusi, adesso... cara, lei ha chiamato proprio per questo? Beh, cioè, certo, si è sentita... sì, ho capito. Ma qual è il problema? Non ho capito. No, ma per carità, va benissimo tutto. Allora, qui io... ma lei, signora Michela, è fidanzata con qualcuno? Ma perché non no, posso chiedere? Ma perché devi chiedere? Effettivamente, se uno, se uno va a vedere la foto di Salvini, no, su oggi, se io fossi il fidanzato della signora Michela, ad esempio, ma perché uno non può chiamare cara Michela? Parenzo vuole sapere se lei è fidanzato o no. Che tra l'altro ha un nome bellissimo, che è il nome della mia mamma, quindi non posso. Vabbè, Michela, lei è fidanzata, è sposata, che cos'è? Single? Ma perché a lei interessa Crisanti? No, a me no, a me non interessa. Cioè, già ho tanti problemi. Io, figuriamoci, appunto, adesso ci mettiamo. Immagino. No, immagina che immagina, immagina che immagina cosa, cioè non immagina niente. Vabbè, comunque, non abbiamo chiesto se lei è parente di Totorina, abbiamo chiesto se lei è fidanzato o sposata, può anche dircelo, o no? Ma non penso sia di interesse. È di grandissimo interesse. È di grande interesse. Lei che cosa è, fidanzata, sposata? Adesso, ma io vorrei infatti che lei facesse un contest per me di trovarmi un fidanzato come fece per quella politica. Per Lara Comi, sì. Ecco. Guardi che lo posso anche fare questo contest. Per cui... mi fido della sua. Quanti anni ha lei, scusi, signora Michela? 35. Beh, 35 è buono, Parenzo è buono, cioè, non è eccessivamente giovane, però 35 può andare bene, la voce è abbastanza bella. E devo dire la verità, cara Lori, ho visto adesso, in questo momento ho rivisto la foto, hai ragione, qui c'è il pelo sulla scella addirittura che esce fuori molto folto, no? Folto. Moltissimo. Beh, diciamo che però comunque, molte sono attratte dal pelo dell'uomo, no, dal pelo. Molte donne amano l'uomo proprio peloso, un po' della foresta, diciamo, sì. Quindi non bisogna escludere la possibilità di lasciare a lui la scelta a questo punto di come essere. Beh, certo, infatti. Senti, ma è vero che tu, ho letto un'intervista pazzesca che hai fatto, cara Lori, innanzitutto voglio chiederti una cosa, è vero che sei in difficoltà economiche? Io? Ma a me non me l'ha mai chiesto nessuno, è la prima volta. No, ho visto da qualche parte che hai detto, ma magari sono cose che rimbalzano dal web, che sono finte. Ho dei problemi economici, non so cosa è successo. No, questo non l'ho mai dichiarato. No. Posso dire ora che certo in quest'anno in televisione si è lavorato molto meno degli altri anni a livello di compensi, cioè nessuno... Cioè non stai messa male, non sei in difficoltà, non stai messa male da questo punto di vista. No, ma sai, io sono tranquilla, non faccio grandi cose, quello che ho me lo faccio abbassare e vivo, diciamo, non con follie, magari una volta facevo qualche più follia. Sai, con i figli, eccetera, stare un po' tranquilli. Assolutamente. Certo, quest'anno è stato un anno veramente complicato. Sì, tutte le reti, complicato. Rai e Mediaset sono veramente. Ma è vero che tu a letto ami essere dominata? Dico di sì, perché io decido tutto, cioè da cosa si mangia, dove si va, cioè un uomo con me, poverino, non so. Ma c'è un uomo deve dominarti anche sessualmente, cioè tu proprio sei... No, è l'unica volta che decide qualcosa. A letto è l'unica volta che decide qualcosa. Sono un po' stanca quando vado a dormire, per cui se lui vuole a un certo punto devo sottomettermi, perché ha ragione, è un diritto di avere la preda, è giusto. Ed è giusto così, dici tu, è giusto. E un'altra cosa che mi stupì, ma davvero ti piacciono solo quelli giovani? Cioè, per esempio, io sono 48 anni, credo di essere veramente fuori da ogni, per te fuori da qualsiasi tipo di Parenzo addirittura 37, 38, per cui noi siamo completamente 38, fuori. Adesso, grazie. Cioè, proprio se hanno più di 25 li escludi? No, non è vero. Poi sai, le casualità ti portano così. Però ti piacciono soprattutto molto molto giovani. No, mi piace sempre disposizione di seguire un progetto insieme. Voi, per dire, siete già fermati. Io, se stessi con voi, dovrei abitare dove state voi, dovrei io muovermi, voi non vi muovete. Beh, io adesso, ho bisogno di gente che per me si muove, che segue, non che io devo seguire. Stiamo entrando un po' troppo nel dettaglio, mi pare. No, ma dobbiamo entrare nel dettaglio. Cioè, dobbiamo nel dettaglio. Ah, tu dici, se ti metti con Parenzo devi spostarti tu. Invece un toy boy, diciamo, un ragazzo così giovane. Vabbè, senti, ne parliamo nei prossimi giorni, vedete? Braccio fortissimo e ti do un bacio, ciao. Salute. Ciao Lori, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vabbè ragazzi, questa musichetta che mi rompe i coglioni ogni volta, dobbiamo chiudere, che contest, che mi dici, che contest? contest. Vabbè, Michela, ti chiamo domani. Facciamo questo contest per trovarti il ragazzo. E qui c'è un sacco di gente arrapata. Al di là del vetro, pieno di gente arrapatissima. Mamma. Sì, vabbè. A voi piace un mondo così? Mi hanno ricordato, c'è il contest da fare. Tutti arrapati come bestie. Cioè, non vedono l'ora di capire. A voi come piace sei. Un mondo così? Così come? A voi piace un mondo così? A noi sì. A noi sì, piace un mondo così. A me fa cagare un mondo così. A domani. Ma a me piace tantissimo. 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Che ne frega niente, nulla, zero. Forse lui, non lo so. Understand? Radio 24. La passione si sente. La Zanzara.